che io viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina darò voce al misogino che è in noi. Premetto che a me le donne non hanno mai fatto nulla di male. Capisco però che possano essere odiose. Se mi interrogo però non riesco a sentire astio verso le femmine come se fossero una categoria dannata. Non riesco proprio a avercela con loro, anche se sono conosciute di pessime, anche se loro mi hanno insegnato qualcosa e quindi alla fine devo essere grato anche alle più stronze che ho incrociato. Posso dire con leggerezza di essere grato a tutte le donne che ho conosciuto, in ogni maniera, in ogni gradazione, dalla moglie alla barista che mi molla lo scontrino al bar, passando per le amiche, le confidenti, le colleghe, le ipocrite, le fighe di legno, le vampire, le appiccicose, le affettuose, le complicate, le placide, le odorose, le irsute, le traccianti e le baccanti. Sono grato e riconoscente sia alle postulanti che alle castranti, le spossanti, le mistiche, le realistiche, le colte, le estetiste e le madri di ogni mia sistole. Amerò ancor più le trapassate, le future, le psicopompe, le urì e tutte quelle che mi ascoltano qui. Però ci sono uomini che non capiscono e odiano con la mente, le viscere e tutte le donne. Oggi darò a loro voce. Il misogino è detestato, vilipeso, è considerato un frustrato, un bruto, uno psicopatico, un irrispettoso. Purtuttavia serpeggia, striscia e galleggia ovunque. Forse farlo parlare servirà a placarlo. Ti volevo raccontare di quando, a soli 6 anni, a proposito di misoginia, la mia mamma mi disse: sai, siamo tutti uguali nella vita, uomini e donne, abbiamo gli stessi diritti. Arrivato a scuola, una bambina mi picchiò e io le resi le botte. Arrivato a casa, dopo le sgridate della maestra, mi presi anche quelle della mamma e gli dissi: ma mamma, non siamo tutti uguali, non abbiamo gli stessi diritti. E mia mamma mi disse: ma le donne non si toccano neanche con un fiore. Di lì ho capito che non avevamo gli stessi diritti. Questo lugubre, cupo, stremato califfo sappia una volta per tutte che noi non siamo marziane. Vogliamo abitare la terra, questa terra, ma non più per far da concime, come avviene da 4.000 anni. Questa mattina mi sto scavando la fossa con le mie stesse unghie, lo so perfettamente. Questa mattina non ho voluto chiamare ospiti, non ho voluto psicologi, non ho voluto antropologi, non ho voluto preti, non ho voluto libertini, non ho voluto donne, non ho voluto femministe, non ho voluto nessuno. Ho soltanto l'aiuto, il sussidio e il punto di riferimento di chi mi ascolta. 800 24 00 24. Questa mattina parlo di misoginia. Potremmo fare e cercare delle radici storiche profonde. Già questo tema che ho messo ieri sera in Facebook, visto che ho questa appendice sensibile in diretta ma molto profondamente attaccata al mio immaginario che è la rete, le persone che stavano su Facebook mi hanno già risposto sulla misoginia. Le donne hanno subito detto: ah, che brutto argomento, non ne vogliamo sentir parlare. Parlare di donne come categoria è già discriminarle, come se fosse un delitto considerare che esiste la categoria del femminile. Noi facciamo sforzi in magno ogni giorno, una fatica estrema, a dimostrare che siamo uomini, che ancora esiste la possibilità labile e difficile di essere uomini, e non si può nominare la femminilità come una categoria. Già sembra di irritare qualcuno, di far arrabbiare qualcuno. Quindi mi sono già preso la patente di criptomisogino, nonostante questa introduzione che avevo già messo ieri in rete, in cui dimostro la mia perfetta buona fede. Non ce l'ho con nessuna donna. Mi hanno fatto cose infami le donne, ma come a qualunque essere umano me l'hanno fatte anche gli uomini. Mentre gli uomini vorrei vederli tutti morti, stecchiti e sofferenti, per le donne ha una sorta di senso di riconoscenza. Ma questo probabilmente è una mia personale stortura. Radici storiche della misoginia. Profondissime, mi cita già adesso un ascoltatore. Già nella Bibbia, quando si parla di Eva che ha corrotto Adamo, c'è un senso profondo di misoginia. La donna è colpevole, la donna in fondo è qualcosa che ci porta alla perdizione. Questa è un po' un'idea che serpeggia tanto nella cultura occidentale del Novecento. Quando Nietzsche dice: se vai dalla donna, porta la frusta. Questo è un grande consiglio che viene dato. L'uomo deve essere educato per la guerra e la donna per il riposo del guerriero. Ma quale guerra? quale guerriero, quale riposo. E quando ci si riposa c'è bisogno di avere una donna vicino. La donna non deve essere riposante. Poi un caso molto singolare che vi racconto, mentre voi spero che telefoniate, 800 24 00 24, vi darò esempi concreti di misoginia, però nel frattempo se qualcuno di voi gentilmente può chiamare, mi farà riprendere fiato. Beh, vi parlo di un esempio. Io oggi volevo citarvi quello che secondo me è un classico roboante e detestabile della misoginia. È il libro di Otto Weininger, Sesso e carattere. Questo signore, un signore molto strano, nato nel 1880 a Vienna, si cominciò a scrivere una tesi di laurea, scrisse questo libro, Sesso e carattere, in cui diceva che praticamente gli uomini erano puro spirito, le donne erano pura bestialità, pura animalità. Ebbe un grandissimo successo, solo che lui, appena finita questa sua tesi di laurea, si sparò un colpo in testa, fu ucciso. Ma siccome lui era ebreo e anche profondamente antisemita, la sua opera fu presa come la soluzione migliore quando poi venne il nazismo. L'ebreo che denuncia l'inferiorità del suo essere ebreo e poi si spara, quindi si elimina. Quindi questo libro, che è detestabile nella parte in cui associa la femminilità come categoria detestabile all'essere ebreo, ma però devo dire che è molto interessante, perché lui dice apertamente ciò che cova in maniera inconsapevole in tutti i livori, in tutte le cattiverie, in tutti i discorsi da spogliatoio, in tutti i post calcetto, in tutte le classificazioni semplicistiche di quando gli uomini dicono le donne non le capiamo, perché bisogna capirle, non è necessario capirle, basta frequentarle, basta contaminarsi con le donne. Beh, lui dice che le donne sono naturalmente incapaci di comprendere i principi assoluti. La donna vive soltanto, il fine della donna è quello di essere una macchina da coito. La donna vive come soltanto per costringere l'uomo all'accoppiamento, quindi lo distrae dai suoi pensieri astratti, dal suo assoluto. Perché? Perché deve accoppiarsi con l'uomo. Quindi la donna non ha nessuna idea dell'infinito, ad esempio, perché la donna manca l'anima. La donna è puro desiderio animalesco, puro desiderio di accoppiamento. Quando l'uomo è stupido significa che in lui si manifesta l'anima femminile. Questo lo dico subito perché è la somma più estrema, più lucida e più chiara e più impudica della misoginia al suo stato puro. Poi invece noi la conosciamo in tante sue possibili letture, in sue declinazioni che viviamo ogni giorno. Noi questa mattina vi proponiamo un caso palese, lampante, forse dissimulato, forse non così lucido di misoginia, che probabilmente assomiglia all'esperienza esistenziale di molte persone che ci stanno ascoltando. Iniziamo subito dalla testimonianza. 800 24 00 24, liberiamo il misogino che è noi. Parlando di luoghi comuni, si sente molto spesso in giro la frase «la violenza alle donne», stupri, botte, denti che saltano. Però stranamente, per una mia esperienza vissuta, non si parla mai della violenza da parte delle donne agli uomini, una violenza completamente differente. Una violenza psicologica, molto sottile, molto dolorosa, molto dannosa più che altro. Mi è successo l'anno scorso, premetto io ho 38 anni, di scoprire un movimento da parte di mia moglie, sposati da appena 2 anni, tramite SMS. Entrando nella porta del bagno, noi non usiamo chiavi dentro casa, l'ho trovata con il telefono in mano con un'espressione molto strana, un'espressione che sembrava parlasse. Si inizia da un'esperienza personale a volte dolorosa, traumatica, un'esperienza di tradimento, di disillusione da parte di una donna. Quando uno è felicemente gratificato all'universo femminile non si accorge di essere misogino, anzi ha il cuore aperto, una grandissima gratitudine nei confronti delle donne. Però quando uno si sente toccato dal vivo in un episodio anche molto banale, di rottura di un patto di fedeltà, improvvisamente se la prende con l'intero universo femminile e improvvisamente individua tutte quelle categorie perverse, quei luoghi comuni, quelle attribuzioni di maniera che nella opera del nostro misogino per eccellenza, Otto Weininger, noi troviamo così espresse. Vi avevo detto prima che volevo dirvi un episodio, ve lo dico anche se non ha nessun valore rispetto all'argomento. Io questa mattina, per documentarmi di più su questo autore, di cui mi ero portato sotto braccio il libro che possiedo, una rara edizione degli anni 30 di Sesso e carattere, che trovai in una bancarella qualche anno fa per poche lire, quindi non mi sembrava vero, è ancora tutta rovinata con la copertina legata con lo scotch, beh, ho cercato in rete, ho trovato un articolo che in parte ho citato, di Vincenzo Sciacca, che parla appunto della macchina da coito e analizza l'opera di Otto Weininger. Come illustrazione di questo articolo c'è esattamente la scansione della copertina del mio libro. La riconosco con tutti i pezzetti di scotch, con le rotture, e mi domando come mai Vincenzo Sciacca avesse a disposizione questo libro, tanto da scansionarlo, tanto da pubblicare un articolo nel 2004, e poi questo libro l'ho trovato in una bancarella, perché l'ha buttato via, gliel'hanno rubato, gli hanno portato via, non glielo ridarò mai, però mi piaceva e mi sembrava singolare questa vicenda. Sono un informatico, sono riuscito in pochissimi minuti a entrare nel suo tabulato telefonico e ho trovato circa 300, non mi ricordo se 300 o 400 messaggi effettuati nel giro di un mese, verso sempre lo stesso numero. Lei lavora in un ministero, praticamente mi ha spiegato che era un gioco che stava svolgendo con un suo collega d'ufficio, leggermente più grande di lei. Mi ha chiesto di crederle. Io sinceramente non le ho creduto e ho continuato a indagare, a mettere i microfoni. Ecco, questa è stata la cosa assurda, perché effettivamente queste sono delle forme di autodistruzione, perché se il male non c'è, probabilmente una persona se lo va a cercare per soffrire una leggera forma di masochismo. Si sta cominciando a insinuare nel nostro ascoltatore, che ci ha dato così generosamente la testimonianza della sua vicenda, il germe della misoginia. All'inizio è il tipico atteggiamento del tradito, del cornuto, che non fa altro che cercare le prove. Il cornuto vuole le prove, il cornuto deve celebrare la gloria del suo essere tradito. Finalmente ha un'occasione per tirare fuori la misoginia, il disprezzo totale, cosmico, che forse probabilmente è nel DNA di ogni uomo nei confronti del genere femminile, e vuole le prove. E quindi, essendo informatico, si mette in maniera accanita, in maniera folle a cercare le prove. Il telefonino, in fondo, è la versione contemporanea e moderna di quello che una volta era il diario. Era la prova, il fazzoletto lasciato come pegno d'amore, Otello, perché uccide Desdemona nella sua totale idiozia, nel suo essere accecato. La uccide perché la temeva, perché si sentiva inadeguato. Leggetevi Shakespeare e capirete quanto c'è di attualità in questo considerare questo omaccione stupido, proprio probabilmente perché era negro. E proprio per questo Otello alla fine uccide Desdemona. È l'immaginazione più forte di una discriminazione razziale. Allo stesso tempo, però, oggi i supporti della passione elettronici forniscono delle occasioni mirabolanti per costruire i propri universi masochistici da parte di un uomo che deve dimostrare che le donne sono cattive, e quindi comincia a guardare nei telefonini. Ma intanto abbiamo Carla. Carla, buongiorno. Buongiorno. Ecco, sono contento di avere un primo supporto perché mi stava andando via la voce. Buongiorno. Io volevo dire che da un lato sono d'accordo su quello che sto sentendo adesso. Effettivamente la donna ha un atteggiamento a volte un po', definiamolo, perfido nei confronti, tra virgolette, del mondo, perché piace essere guardata, piace essere diciamo quasi oggetto del desiderio, pur se nessuno lo ammette, ma la realtà è questa. Perché, Carla, perché non dovrebbe piacere? No, ma io concordo che è giusto, perché sono una donna, insomma, anch'io, e mi piace obiettivamente questo, però il concetto è che poi noi effettivamente... Lei non si sente però, come diceva Otto Weininger, soltanto una macchina da coito, immagino. No, ma nel momento in cui soprattutto ho scoperto le parti belle della donna, cioè oltre alla sua maturità anche l'essere mamma, anche l'essere moglie, cioè questi vari ruoli che poi, se uno riesce a farli veramente interagire in maniera stimolante, diventano una realtà di grande, grande riflessione per la donna, che la fa crescere molto. Non so se si può dire che può tendere all'infinito, come qualcuno diceva, la donna non può tendere all'infinito. Ecco, però questa divisione che ha fatto lei è la classica divisione che sta alla base però della misoginia tipica del pensiero del pensiero occidentale. Anche Otto Weininger divide la donna in due grandi categorie: la madre e la prostituta. Non, tertium non datur, non c'era un'altra possibilità, o era puttana o era madre. E questo mi sembra forse un po' limitato. Secondo me una donna può essere piacevolmente entrambe le cose. Bravissimo, controllando entrambe le sue potenzialità. Ha detto questo, la cosa importantissima, controllando, cioè controllando nel senso che ci vuole quella parte di grande io dico riflessione, non razionalità, perché è brutto definire la razionalità limitante, riflessione su quelli che sono poi le emozioni e i sentimenti che la persona prova nel momento in cui fa delle cose, quando fa amore, sesso col proprio uomo, quando è mamma e quindi ha quegli atteggiamenti di insegnamento amorevoli nei confronti dei propri figli, quando invece va a far la spesa e quindi è organizzatrice, cioè capire la bellezza di fare delle cose riflettendo su quello che uno fa. Non ecco, però vorrei riportarla al problema. Lei sta facendo una giusta e lecita apologia delle varie corde della femminilità che possono essere toccate, sfiorate, a volte anche fortemente pizzicate, sempre se c'è condivisione. Ma invece le radici della misoginia, perché quello che lei dice in maniera così lucida e così limpida può essere frainteso e può diventare per molti uomini, e questa è l'accusa mi viene più fatta, spesso io non le cito più queste cose perché quest'anno non voglio dare voce al dissenso di cui mi ero fatto gloria l'anno passato, ma tutti mi dicono, le donne che chiamano da voi sono tutte donne perdute, io uso un termine eufemistico, non ammettono che una donna possa così liberamente dare espressione a tutte le potenzialità del suo essere femminile, quindi rientra nella categoria delle puttane, non è più nella categoria delle mamme che danno alla donna una possibilità di esistenza. Ma l'importante è questo, avere poi la capacità di supportare chi uno ha vicino, perché se ciò non avviene ed è pure semplice edonismo non concludiamo nulla. Il supporto anche nel momento in cui uno è moglie, madre, quello che sia, o al proprio uomo, ai propri figli o a se stesso, cioè essere comunque qualche cosa che possa trasferire qualcosa, non fino a se stesso, perché poi alla fine può essere questa una problematica. E questa era probabilmente l'attesa che aveva il nostro amico nei confronti della donna di cui in questo momento, e ritorniamo nella nostra storia salutando Carla, lui non è più diventato il compagno, non è più diventato l'uomo, non è più diventato la persona con cui hanno scambio, è diventato il feroce inquisitore. Lui deve capire, deve avere la prova che lei appartiene alla categoria perversa del mondo femminile. Lei, pur di portare avanti il suo tipico orgoglio femminile, non mi ha rassicurato, ha continuato a martoriarmi acquistando altri due telefoni, tre telefoni, facendosi vedere continuamente con telefono in mano, magari facendo finte telefonate, finti messaggi, una violenza psicologica. Risultato? Sono stato ricoverato in un ospedale psichiatrico per circa un anno, ne sono uscito fuori alla grande. Questa è violenza o no? Se mettiamo a paragone, questa violenza è una violenza tipica, quella che si sente spesso in giro, il marito che mena la moglie, che gli tira il portacedere in testa. Mettiamo sul piatto della bilancia. Io proporrei semplicemente che si cominciasse a parlare anche di queste cose. E infatti io ne sto cercando di parlare, se qualcuno è così interessato altrettanto alla mia curiosità di dare un contributo, 800 24 0024. Tocchiamo e sottolineiamo un altro luogo comune. Spesso ci troviamo tutti, noi uomini, misogini repressi, misogini non confessi, misogini culturalmente reticenti a confessarlo, nel dire questa cosa. Sì, è vero, io ti rompo i denti, ti spacco le ossa, alzo la voce, sono violento, sono terrificante, ma tu sei così sottile, quasi una tortura cinese, quasi un cercare il nervo scoperto, che giorno per giorno instilli veleno nella mia anima e quindi anche tu, donna, sei altrettanto cattiva quanto posso esserlo io. Qualcuno vorrebbe dirmi, ma vuoi allargare il discorso a tutta la categoria? No, assolutamente. E ho notato che questa caratteristica, anche se non quelle portate così potenti, l'ho trovata in moltissime donne, sinceramente. Noi forse, dico noi, escluso io, perché non l'ho mai fatto, meniamo, spacchiamo i denti, tiriamo portaceneri, usiamo il martello e il macete per tagliare le teste, però ho visto che questa costante esiste è proprio una caratteristica che compiono tutte le donne, lavorare sul sottile, lavorare sulla psiche, corrodere lentamente. Mi sembra di aver messo abbastanza argomenti, sottoponendoli alla vostra attenzione qui sul piatto. 800 24 0024, cerchiamo di far venire fuori il misogino che è in noi, perché c'è, è inutile nasconderlo. Volevo dire che le donne sono incontentabili, quando le coccoli si lamentano, se non le coccoli si lamentano, ma io non so che cosa vogliono queste donne. A volte è difficile capire realmente, insomma, insomma, le ragazze cosa vogliono? Fino a una certa età non vedono l'ora di far famiglia un figlio. Dopo averlo cresciuto forse hanno un cambiamento, cercano di essere portate da qualche parte. Le nostre mi sembrano molto più sofisticate, pretenziose. Stiamo parlando di misoginia, stavo riflettendo durante l'intervallo della storia, sulla storia che vi abbiamo fatto ascoltare poco fa. Un marito scopre un tradimento presunto della moglie leggendo i suoi messaggi nel telefonino, comincia a indagarla, a mettere microspie dappertutto, a guardare. La moglie per tutta risposta lo fa impazzire aumentando il numero di telefoni cellulari, facendosi cogliere sempre in atteggiamento sospettoso, mostrando può moltiplicare l'oggetto della sua disperazione, lui finisce ricoverato in clinica. Beh, mi sembra una versione meravigliosa, contemporanea, di una forma moderna, perché degli anni 50, ma affonda le radici in qualcosa di antico, che è la chiave dello scrittore giapponese Junichiro Tanizaki. Noi forse conosciamo meglio la lettura cialtrona fatta da Tinto Brass con Il culo nella Sandrelli, ma in realtà è una storia raffinatissima. È una coppia di coniugi giapponesi che improvvisamente riscopre dei furori sensuali inimmaginabili in un matrimonio piuttosto stanco, guardando furtivamente l'uno il diario intimo dell'altro. Sia il marito che la moglie annotano in un diario i loro desideri, le loro voglie di perversione, di esplorazione sessuale, e soprattutto il marito comincia a scoprire la moglie, una perfetta, integerrima sposa giapponese, portatrice di un universo fantasioso inimmaginabile. E ciò accende sempre più il suo desiderio. Lei finge di lasciare inavvertitamente la chiave dello stipetto dove tiene questo diario. Lui finge di non sapere che probabilmente quelle cose le scrive apposta per lui. E più lei scrive, più lui si infiamma e più lui ha il sospetto che lei probabilmente non sappia che lui legge il diario, quindi siano cose vere, quindi tutti i tradimenti, tutte le cose che questa moglie descrive, i desideri di questa moglie potrebbero essere vere o potrebbe essere semplicemente un gioco per farlo infiammare. Beh, alla fine lui prende la parte migliore di questo, al punto tale che per la troppa lussuria muore alla fine, quindi c'è sempre una distruzione, ma il nostro amico non ha saputo cogliere probabilmente alcuni messaggi che gli lanciava questa donna mostrandogli la molteplicità dei cellulari. Abbiamo al telefono Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, sì. È la prima che sento del genere. Ma va bene, sente poco nella vita perché se ne fanno tante in giro. Vabbè, andiamo avanti. Sì, no, volevo soltanto dire che in effetti la donna non ha più punti di riferimento, forse qualcosa aveva prima, perché, adesso ci sono... Perché noi invece ne abbiamo tanti, Ma noi ne abbiamo, l'uomo è artista, l'uomo è pittore, l'uomo è scultore, l'uomo è pianista, musicista. Per me l'uomo è un cialtrone, specialmente l'uomo della contemporaneità, e mi metto in questa categoria. Ha perso totalmente il coraggio di avere anche il rischioso compito di essere uomo con tutte le sgradevolezze, e quindi ha questo atteggiamento un po' mammone, un po' femmineo, un po' gnoccolone, un po' bamboccione, che viene detto, in cui vuole essere uomo quando gli fa comodo, fugge dall'essere uomo quando ciò non gli fa comodo e punta il dito contro la donna cattiva e lo racconta alla mamma, che di tutte le donne è la più buona. Ma lo dico sentendomi perfettamente integrato e corrisposto e rappresentato da questa categoria, e non mi faccio fuori. Ma dipende dalle esperienze che uno insomma ha fatto nella vita. Io personalmente ho lasciato l'Italia a 20 anni e mi sono sempre arrangiato per conto mio. E dove vive adesso? Adesso sono qua a Torino. Vabbè, Torino fa parte dell'Italia. Sì, però tanti anni all'estero. E dove è stato all'estero? In Brasile, in Giappone, in America. Ecco, e lì trovava donne naturalmente adeguate al suo essere maschio. No, vabbè, ma attenzione. No, scusi, io sono provocatore perché la voglio scoprire, non perché ce l'abbia con lei. Dipende uno cosa cerca dalla vita. No, perché io feci una trasmissione tempo fa sulle donne dell'Est. Gli uomini si ritrovavano improvvisamente, finalmente maschi, erano delle donne remissive, vere femmine, sottoposte, subordinate. No, non è quello. Io credo che questa presa di posizione della donna sia dovuta ed è giusta, perché insomma, voglio dire, non esiste che l'uomo dica alla donna fai i piatti. No, esiste, come no? Perché non deve dirlo? No, esiste, ma non è il modo di l'importante è che quando serve li faccia anche lui i piatti. L'importante è che non ci sia un principio discriminante a priori. È proprio quello il problema. perché fino adesso insomma c'è stata una certa autorità maschile, no? Invece adesso pian pianino si sta capendo che forse è meglio dare una mano insomma anche in casa facendo i lavori. Va bene, questo mi sembra un punto di integrazione, di avvicinamento considerevole. Loredana, buongiorno. Loredana, ecco, io vorrei essere tranquillizzato sul fatto che le donne vogliono veramente uomini che lavino i piatti. Beh, perché no? Ogni tanto fa comodo, ogni tanto ci vuole. Riflettevo su questo, però, intanto che coraggio, complimenti. Riflettevo su coraggio, complimenti per cosa? Per il coraggio. Cioè, mica rischio la vita, più coraggio chi ogni giorno va in motorino per le strade del centro cittadino. Il linciaggio, come diceva radiofonico, forse sì. Comunque. Vabbè, ma quello fa parte del mio mestiere. Vabbè, andiamo avanti. Certo. Riflettevo su questo, che forse le donne hanno la possibilità di vivere contemporaneamente più esperienze diverse rispetto all'uomo. La genitorialità la vivono in modo molto più intenso, c'è poco da fare. Sì, ma non usiamo, non ci improvvisiamo, psicologi. Mi parli della sua esperienza, voglio sapere. Dunque, lei avverte la misoginia maschile, motivo di disprezzo, motivo a volte di attrazione? Perché molte volte le donne amano essere trattate da donne, lo chiedono disperatamente, non sempre gli uomini sono all'altezza di poter loro propinare questo tipo di attenzione. Vorrei capirla nelle sue sfumature. Allora, io le posso dire che la misoginia, vabbè, l'avverto anche abbastanza, ma soprattutto mi sembra di avvertire, cioè le dico che io a volte ho provato una, tra virgolette, strana forma di misoginia al femminile settoriale, mi spiego. Io ammetto candidamente di provare a certe volte invidia per le categorie di donne che sono più di quanto sono io in un certo aspetto della loro così, della e lei dice stessa. Ci sono arrivate usando la loro femminilità in maniera subdola, chi non la dà non fa strada, questo è il senso. Perché no? Diciamolo, perché lo sento dire a tutte le donne che io conosco impegnate nel mondo del lavoro, hanno sempre loro qualcuna che ce la fa perché usa la sua femminilità e conosce bene la debolezza maschile, l'infingardia degli uomini che in fondo sentendosi glorificati e adulati costringono comunque altre donne loro sottoposte a subire anche l'angheria di una donna, che è terrificante, è come il capo in un lager quando in un ambiente di lavoro una donna diventa l'aguzzina delle altre donne perché concede il suo favore al capo. Esatto, però dicevo che adesso mi ha sviato con questa valutazione, però... Beh, è la mia maniera di essere misogino, sviare le donne e decentrarle rispetto al loro scopo. Io ho un'esperienza serena di vita familiare, sono assolutamente monogama e serena. L'ho letto con rimpianto, però, mi permette... No, che non si ammette, secondo me, candidamente, il fatto che... No, dico, ho notato una nota di rimpianto in questa sua affermazione di virtù, mi scusi se... Ma questo misogina presunzione? Può essere, ma le sto dicendo proprio questo, che finché non si ammette candidamente anche questa forma di invidia da parte femminile, non si può pretendere che lo sguardo dell'uomo non diventi misogino. Bisogna comunque serenamente accettare queste debolezze, almeno io l'ho vissuta in questo modo, e esiste anche questa forma di misoginia femminile che se non la si digerisce in qualche modo non si può pretendere nemmeno che lo sguardo dell'uomo nei suoi confronti sia assolutamente equilibrato. Quindi dice la nostra ascoltatrice facciamoci i conti chiaramente tra noi, mettiamoci d'accordo, cosa impossibile, chi ci ha provato non ci è mai riuscito, anzi ha ancora di più confermato la possibilità che il misogino possa esercitare il suo malevolo potere. Io voglio dire che comunque la donna di oggi è quella che tu rappresenti con quei stralci, quello che vediamo in Sex and the City. La donna non può più essere sottomessa, altrimenti c'è il rischio di incompatibilità fisica, è totale, proprio non c'è la possibilità di convivere. Non so se tu ci hai mai convissuto con una donna, oggi è improponibile, quindi è meglio trattarla come uno straccio senza farla entrare troppo nella tua vita. ci convivo da 20 anni e più, a volte trattandola come uno straccio, a volte facendomi trattare come uno straccio. Questo fa parte del compromesso e, come dice Barbara Alberti, la coppia è al centro di ogni relazione, poi chi cerca l'amore è un vero cercatore di rischio. Melog 2.0. L'ospite che abbiamo in studio, che dialogherà con le altre persone che sono intervenute, ha le idee molto chiare. Ciao, Salvatore, buonasera. Marino. Buonasera a tutti. Maschio al 100%. Sempre dicevano. Sempre? I latini. Possiamo far vedere la sua maglietta, certo, con la scritta, eccola qua, www. I bianchesiti da cui... Sì, poi dopo li vedremo. Molti video che... Il crocifisso incorporato. Crocifisso, beh, è la mia fede cristiana. E questo invece è l'altro che c'ha sulla... L'altro è il simbolo del movimento politico che abbiamo formato, che è l'unico partito di genere a difesa e tutela dei maschi, perché non esistono nessun partito in Italia che è a tutela dei maschi, solo tutela delle donne o di altre devianze tipo appunto gli omosessuali, ma non ce n'è uno che tutela i diritti dei maschi eterosessuali. Poi si parla tanto di family day, di famiglia tradizionale, ma in una società in cui non si tutela ma si discriminano i maschi in quanto tali, in quanto etero, ovviamente è ovvio che si generano delle anomalie come questa società. Questo era Salvatore Marino, il movimento Maschio 100%, è un cult in rete, fa parte di una frangia molto folcloristica, però di un movimento che esiste veramente, il movimento degli uomini, dei maschi, degli uomini selvaggi. È un argomento importante di cui potremo anche parlare in seguito, che è per la rivalutazione della mascolinità come valore. Lui ne rappresenta la frangia quasi folcloristica, va in giro con delle signore, sono femmine al 100% perché sono totalmente soggette a lui, che è un signore, va in giro con giubbotte di pelle, con simboli fallici, totalmente disprezzo per ogni gradazione della femminilità, della mascolinità. Ma questo rappresenta, diciamo, un esempio paradossale di un atteggiamento che è molto difficile da stabilire. Mi diceva nell'intervallo Fabrizio Intonti, che assieme a Paolo Corleoni danno confezione e spessore alle mie parole, che escono anche molto difficilmente questa mattina, che lui ha una concezione della misoginia come quasi una cosa, un farmaco omeopatico. Ce ne vuole un pochino, serve, è necessario, ma è vero, è giusto. Se non fossimo un po' misogini non riusciremmo a avere quella dimensione del giusto dosaggio del nostro essere maschi e non saremmo affascinanti o appetibili alle persone che hanno la benevolenza di accorgersi che noi esistiamo. Sara, buongiorno. Buongiorno. Ho già sentito abbastanza stamattina come storie, c'è un'infarinatura di tutto. Io volevo dire... No, non mi dica infarinatura, odio le infarinature di tutto. No, ma le spiego. Cioè, sono frammenti sparsi, non vogliamo essere esaustivi in nulla. Io amo le visioni piuttosto dei punti di vista. Non esprimo punti di vista, ma esprimo visioni. Ne prendo pezzetti e le metto assieme, poi ognuno ne fa l'uso che vuole. Prego. Perfetto. Allora, ho sentito di questo signore, poverino, psicologicamente... turbato, no? Dalla moglie, credo aver capito. Beh, aveva un pochino sì, di motivi, qualche piccolo motivo ce l'aveva anche, poveretto, l'ha presa male. Sì, infatti. Però io invece sono soggetto femminile che ha subito psicologicamente dal maschio, perché comunque si parlava stamattina di queste donne che usano le armi sessuali per far cascare il povero imbecille nella ragnatela. Imbecille, lo facciamo anche volentieri, non è che poi ci lamentiamo. Ecco, questo è il punto. Io una categoria delle femmine che conosco ovviamente, ma che non mi ha mai appartenuto. Forse sono stata scema io, perché mi sono sempre sentita dire sbagli, andare incontro all'altro sesso, devi farti desiderare, devi essere stronza, devi fare... Sì, ma infatti, io, guardi, il segreto, che non mi ha mai appartenuto, il segreto è far annusare, non è essere immediatamente disponibili. Le vere maestre in questo sono persone che poi si concedono molto poco facilmente. È vero, ma io parlo di un discorso mentale, non fisico. Io parlo del fatto che ho sempre avuto una grande passione per il sesso maschile e sono sempre stata dell'idea che comunque non sono pezze da piedi, non sono animali. Abbiamo due modi diversi di arrivare allo stesso punto. E in quel frangente è difficile comprendersi come arrivarci. Se ci si mettesse d'accordo, scusi, se ci si mettesse d'accordo si risolverebbero tante cose e si perderebbe anche meno tempo, no? È vero, però più che se io, ad esempio, come me è successo un'esperienza che per me è stata devastante, sono innamorata di una persona. Tuttora, e questa persona lo sa. Tuttora è innamorata? Non lo so manco più a sto punto, perché sono talmente adirata, delusa e mi sono sentita talmente data da imbecille che ho le idee confuse, ma comunque sia io ho dato la completa disponibilità mentale di voler capire una persona che mi si presentava con disagi di infanzia, la solita storia, e ci sono sempre lei cercava un malato psichiatrico da sollevare, quindi anche lei se l'ha cercato, scusi. Ma io ovviamente non giudico già dal primo momento che quella persona è, perché io do disponibilità, cioè problemi psicologici ce n'hanno tutti, insomma, perlomeno tante persone ne hanno avute, quindi io non parto già con la cosa, ah no, tanto sto qua. Forse, scusi, il soggetto in questione, che poi non vogliamo coinvolgere, certo, cercava una psicologa, non cercava un amante, semplicemente questo, o un'infermiera. Ma questo io ho tirato le somme all'ultimo, quando notavo comportamenti strani, io ho sempre pensato che il maschio un cervello ce l'ha. E allora deducevo che, sapendo la mia posizione e la mia disponibilità, se in cuor tuo onestamente sai che sprecherei del tempo stupido perché tanto tu non hai interesse particolarmente forte per me, abbi la decenza di farti l'esame di coscienza, portar via le scatole e dimmi chiaramente no. Invece c'è una forma di opportunismo, almeno io l'ho subita. Scusi signora, alla fine c'è stato commercio carnale tra voi? Sì. E allora di cosa si lamenta? Ha ottenuto, no, cos'altro voleva? Mi lamento del fatto che lui aveva a che fare con una persona innamorata. Sì, signora, ma nessuno, l'amore non può essere imposto, mi scusi. No, ma infatti, una volta che l'ha avuto, evidentemente... Lontano. Se io sono innamorata e tu non vuoi avere niente a che fare con me, non puoi continuare a rompermi le scatole, esci dal giro. Cioè, pretendere da me, usando i miei sentimenti, e quindi vacilli, perché quando sei innamorato sei più debole, forse più scemo, tutti sistemi psicologici. Sì, vabbè, però questo, guardi, scusi, è un altro argomento, con la misoginia c'entra ben poco, è divertente, starei a parlare con lei per altra mezz'ora, si divertirebbero tutti se entrassero nei particolari. È semplicemente una storia di esaurita, lei vorrebbe continuarla, ma quest'uomo, che non necessariamente ad essere misogino, semplicemente ha esaurito le batterie del suo telecomando e non riesce a spegnerla, e questo è il vero dramma. Camilla, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo, scusate se riporto un attimo l'attenzione al discorso iniziale, che non è quello che riguarda l'esperienza e l'aneddotica, però Otto Weininger. Ecco, secondo me si tratta di rispondere ad Otto Weininger con una cosa che Nietzsche sapeva benissimo, e cioè che gli oppressi non possono che essere meschini. E voglio dire, le donne che vengono... È vero, lui ne era talmente consapevole, poveraccio, che dopo aver certificato in maniera abominevole questa sua oppressione si è anche ucciso. Certo, e voglio dire, le donne vengono da secoli di oppressione e di imbrigliamento, diciamo, in schemi decisi dagli uomini, quindi le donne in qualche modo sono state costrette dalla storia ad essere meschine, proprio perché l'unico strumento che hanno avuto era proprio, come dire, la meschinità, la cattiveria sottile per fare valere la propria volontà, come dire, in quegli ambiti, anche se molto ristretti, della vita, perché appunto la vita politica, sociale era a loro preclusa. Quindi, sì, però guarda, io voglio essere radicale in questo. Per cosa, secondo me, le donne non sono affatto meschine. Altra cosa, quando le donne accedono alla vita politica e sociale, non hanno mai dimostrato che esiste una dimensione ottimale e femminile nel gestire il potere. Le donne di potere sono altrettanto meschine quanto lo sono gli uomini, cadono nelle stesse tranelli e nelle stesse trappole. Irene, buongiorno. Buongiorno. Lei è l'ultima, perché stiamo chiudendo. Ho visto, infatti. Niente, io volevo forse regalare a tutti una visione, come diceva lei poco fa. Mi ricordo di una lettura che ho fatto diversi anni fa insieme a degli amici, ed era un racconto di Le Mille e Una Notte, in cui appunto l'eroina, la protagonista, così osservatrice un po' del mondo circostante, di questi diversi mondi, Shahrazad, mi sembra si chiamasse. Sì, esatto. Si chiedeva e chiedeva a un sovrano incontrato come mai nel suo regno le donne erano in qualche non si vedevano mai, erano rinchiuse in casa, e se lo chiedeva. E questo sovrano le risponde dicendole che in realtà le tengono, lui teneva in casa la propria donna, perché era la sua consigliera, era, diciamo, un modo di racchiuderla, di tenerla vicino a sé, perché era troppo importante, era troppo più di lui. Sì, questo che naturalmente lei sa meglio di me che l'antica, vecchia, indissolubile scusa di ogni uomo: ti amo tanto, sei tanto preziosa per me, che scusami se ti leggo questa catena alla caviglia, scusami se porto via la chiave di casa, ma ti voglio talmente bene, sei tanto preziosa che non vorrei che mai nessuno ti contaminasse. E il signore dei telefonini ci ha provato, ma gli è andata male. A domani. Melog 2.0